Sezione 10 de Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. Il Decameron, parte prima, giornata prima di Giovanni Boccaccio. Quinta novella. La marchesana di Monferrato, con un convito di galline e con alquante leggiadre parolette, reprime il folle amore del re di Francia. La novella da Dioneo raccontata prima, con un poco di vergogna punse i cuori delle donne ascoltanti, e con onesto rossore nel loro viso apparito ne diede segno. E poi quella, l'una l'altra guardando, appena del rider potendosi astenere, sogghignando, ascoltarono. Ma venuta di questa la fine, poiché lui con alquante dolci parolette ebber morso, volendo mostrare che simili novelle non fossero tra donne da raccontare, la reina, verso Fiammetta, che appresso di lui sopra l'erba sedeva rivolta, che essa l'ordine seguitasse, le comandò, la quale, vezzosamente e con lieto viso, incominciò. Sì, perché mi piace noi essere entrati a dimostrare con le novelle quanta sia la forza delle belle pronte risposte, e sì ancora, perché quanto negli uomini è gran senno il cercar d'amar sempre donna di più alto legnaggio che egli non è, così nelle donne è grandissimo avvedimento il sapersi guardare dal prendersi dell'amore di maggiore uomo che ella non è, m'è caduto nell'animo, donne mie belle, di mostrarvi, nella novella che a me tocca di dire, come e con opere e con parole una gentil donna se da questo guardasse ed altrui ne rimuovesse. Era il marchese di Monferrato uomo d'alto valore, confaloniere della chiesa, oltremare passato in un general passaggio da cristiani fatto con armata mano. E del suo valore, ragionandosi nella corte del re Filippo il Borgno, il quale a quel medesimo passaggio andar di Francia s'apparecchiava, fu per un cavalier detto non esser sotto le stelle una simile coppia a quella del marchese e della sua donna. Però che, quanto tra cavalieri era d'ogni virtù il marchese famoso, tanto la donna tra tutte le altre donne del mondo era bellissima e valorosa. Le quali parole, per si fatta maniera, nell'animo del re di Francia entrarono, che, senza mai averla veduta, di subito ferventemente la cominciò ad amare e propose di non volere, al passaggio al quale andava, in mare entrare altrove che a Genova, acciò che quivi, per terra andando, onesta cagione avesse di dover andare la marchesana a vedere, avvisandosi che, non essendovi il marchese, gli potesse venir fatto di mettere ad effetto il suo disio. E secondo il pensier fatto, mandò ad esecuzione. Perciò che, mandato avanti ogni uomo, esso, con poca compagnia e di gentili uomini, entrò in cammino, ed avvicinandosi alle terre del marchese, un dì davanti mandò a dire alla donna che la seguente mattina l'attendesse a desinare. La donna, savia ed avveduta, lietamente rispose che questa l'era somma grazia sopra ogni altra e che egli fosse il benvenuto. Ed appresso entrò in pensiero che questo volesse dire che un così fatto re, non essendovi il marito di lei, la venisse a visitare. Né l'ingannò in questo l'avviso, cioè che la fama della sua bellezza il vi traesse. Non di meno, come valorosa donna, dispostasi ad onorarlo, fattisi chiamar di quei buoni uomini che rimasi verano, ad ogni cosa opportuna con lor consiglio fece ordine dare. Ma al convito le vivande ella sola volle ordinare. E fatte senza indugio quante galline nella contrada erano ragunare, di quelle sole varie vivande divisò i suoi cuochi per lo convito reale. Venne adunque il re il giorno detto, e con gran festa ed onore dalla donna fu ricevuto, il quale, oltre a quello che compreso aveva per le parole del cavaliere, riguardandola, gli parve bella e valorosa e costumata, e sommamente se ne meravigliò e commendolla forte, tanto nel suo disio più accendendosi, quanto da più trovava essere la donna che la sua passata stima di lei. E dopo alcun riposo, preso in camere ornatissime di ciò che a quelle per dovere un si fatto re ricevere s'appartiene, venuta l'ora del desinare, il re e la marchesana ad una tavola sedettero, e gli altri secondo la loro qualità ad altre mense furono onorati. Quivi, essendo il re successivamente di molti messi servito e di vini ottimi e preziosi, ed oltre a ciò con diletto talvolta la marchesana bellissima riguardando, sommo piacere avea. Ma pur, venendo l'un messo appresso l'altro, cominciò il re alquanto a maravigliarsi, conoscendo che quivi, quantunque le vivande diverse fossero, non pertanto di niuna cosa essere altro che di galline. E come che il re conoscesse il luogo là dove era, dover essere tale che copiosamente di diverse selvaggine avervi dovesse, e l'avere davanti significata la sua venuta la donna spazio l'avesse dato di poter far cacciare, non pertanto, quantunque molto di ciò si maravigliasse, in altro non volle prender cagion di doverla mettere in parole se non delle sue galline. E con lieto viso, rivoltosi verso di lei, disse: «Dama, nascono in questo paese solamente galline, senza gallo alcuno?» La marchesana, che ottimamente la domanda intese, parendole che secondo il suo desidero Don Menedio l'avesse tempo mandato opportuno a poter la sua intenzione dimostrare, al re domandante, baldanzosamente verso lui rivolta, rispose: «Monsignor, no, ma le femmine, quantunque investimenti ed in onori alquanto dall'altre varino, tutte perciò son fatte qui come altrove». Il re, udite queste parole, raccolse bene la cagione del convito delle galline e la virtù nascosa nelle parole, ed accorsesi che invano con così fatta donna parole si gitterebbono e che forza non v'avea luogo, perché così come disavvedutamente acceso s'era di lei, saviamente s'era da spegnere per onor di lui il male concetto fuoco. E senza più motteggiarla, temendo delle sue risposte, fuori d'ogni speranza desinò, e finito il desinare, acciò che col presto partir si ricoprisse la sua disonesta venuta, ringraziatela dell'onor ricevuto da lei, accomandandolo ella a Dio, a Genova se n'andò. Fine della sezione 10.